Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1867. L'Italia torna alle urne e cambia il governo. Il 1866 è stato un terremoto, anche politicamente, e l'umiliante annessione del Veneto ha avuto nei primi mesi di questo 1867 pesanti conseguenze. A pagarle, innanzitutto, è stato il barone di ferro, Bettino Ricasoli. Il 15 dicembre il re ha sciolto la Camera per dare ai Veneti la loro rappresentanza. Le vicende della guerra contro l'Austria hanno tenuto banco e hanno messo in evidenza una vera crisi nazionale. Basta leggere cosa ha scritto Pasquale Villari. Bisogna però che l'Italia cominci col persuadersi che v'è nel seno della nazione stessa un nemico più potente dell'Austria e della nostra colossale ignoranza. Sono le moltitudini analfabete, i burocratici macchina, i professori ignoranti, i politici bambini, i diplomatici impossibili, i generali incapaci, l'operaio inesperto, l'agricoltore patriarcale e la retorica che ci rode le ossa. Non è il quadrilatero di Mantova e Verona che ha potuto arrestare il nostro cammino, ma è il quadrilatero di 17 milioni di analfabeti e 5 milioni di arcadi. Il presidente del Consiglio Ricasoli, conscio del rischio di pagare il prezzo elettorale della situazione, ha operato il 17 febbraio 1867 un ampio rimpasto di governo. Ha cambiato 5 titolari di dicasteri. Non è servito a granché. Il 10 marzo il voto degli italiani ha sancito sì il rafforzamento della destra con un più 1,2%, ma la sinistra è avanzata del 2,3% e soprattutto si sono moltiplicati i gruppetti e i partitini. La Camera è ostile. Ricasoli, suo malgrado, lo ha capito alla prima uscita parlamentare. E dire che Ricasoli aveva sperato in un buon risultato. Il Gazzettino ha potuto leggere il nutrito carteggio fra il presidente del Consiglio uscente e Celestino Bianchi, segretario generale all'interno, a proposito delle elezioni, e poi le minute dei telegrammi spedite dal Bianchi ai prefetti tra il 14 febbraio e il 21 marzo 1867. L'attenzione è tutta per i cattolici che il capo del governo ha cercato di portare al voto a sostegno del suo esecutivo. I cattolici hanno, a quanto pare, votato molto di più rispetto al 1865, ma ciò non è bastato a garantire adeguato sostegno ai candidati governativi. E così Ricasoli si è dimesso e il sovrano ancora una volta ha affidato l'incarico di formare un nuovo esecutivo all'antico amico nemico di Cavour, Urbano Rattazzi. La politica italiana, si sa, è fatta di volti noti, di corsi e ricorsi, ma gli ostacoli da superare sono pesantissimi. Le finanze languono, le tensioni al sud, nonostante la riduzione del brigantaggio, restano forti, la questione cattolica è tutta da risolvere, Roma appare lontana. Poi ora c'è un rischio nuovo. Mentre Rattazzi si preparava a salire al governo, c'è stata una crisi tra Prussia e Francia per il Lussemburgo e l'Italia si è trovata in grave imbarazzo. In caso di guerra si è deciso di essere equidistanti. Occorre prudenza. Paolo Piacenza è il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.